voglio amare. Mi butto su di te, poi scappo via. Tu mi assorbi e poi mi fai tornare. Perché sai che nei sogni tu sei mia. Camminare a mezzanotte quando non ci sei è un po' come un cellulare senza il display. Come un ramo caduto da un albero, abbandonato on the road. Ora cerco il tuo sito e faccio il mio download. Vieni fuori a passeggiare insieme a me. Questa notte non è notte senza te. Balliamo silenti e stretti sulle rocce di un molo romantico, dolci come un bacio rubato in un attico. Dai, ti aspetto, luna blu.